GR24, il sole 24 ore. La Guardia di Finanza nella sede della Regione Piemonte. Qualche giorno fa la denuncia di un ex consigliere, settimane bianche con i soldi pubblici. Berlino replica le dichiarazioni di Berlusconi, la Germania fuori dall'euro, parole assurde. Ilva di Taranto, proseguono le proteste in attesa della nuova certificazione ambientale, conterrà una drastica riduzione delle emissioni, fa sapere il governo. L'iPhone arriva in Italia con i prezzi più alti d'Europa, ma nei negozi code nella notte. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Nel giorno in cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Abruzzese firma il decreto di scioglimento dell'Assemblea dopo le dimissioni della governatrice Polverini, gli uomini della Guardia di Finanza si presentano negli uffici della Regione Piemonte. L'inchiesta ha preso il via dopo l'intervista rilasciata due giorni fa a Tele Lombardia dall'ex consigliere, ora deputato del PDL, Roberto Rosso, secondo cui un consigliere regionale era riuscito a farsi rimborsare 5.000 euro di una settimana bianca. Adriana Fracchia ha raggiunto poco fa il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, della Lega Nord. Questa mattina si è presentata alla Guardia di Finanza di Torino su ordine del magistrato, ha informato che è in corso un'indagine conoscitiva e hanno acquisito documentazioni relativamente al finanziamento dei gruppi consigliari, alle dichiarazioni status dei consiglieri regionali, si sono recati anche in tutti i gruppi consigliari per acquisire ulteriore documentazione. Sarà un'inchiesta lunga per controllare tutta questa documentazione e per il momento non ci sono né ipotesi di reato né persone indagate. No, l'inchiesta è conoscitiva, ma ha detto il colonnello della Guardia di Finanza, e quindi in questa fase è un'inchiesta dove magistratura e Guardia di Finanza faranno i dovuti e approfonditi controlli. Di questo ho informato il Presidente della Regione e basta, insomma, siamo qui sereni, aspettiamo gli esiti degli sviluppi. Non commenta questa cosa in nessun modo? Ma non mi sento di commentare un'attività diciamo dell'autorità giudiziaria e della Guardia di Finanza, insomma, gli ho detto le cose come stanno, c'è l'inchiesta in corso, quindi non credo che bisogna fare almeno in questa fase dei commenti. Sono tante o comunque parecchie le regioni in cui stanno facendo questi controlli. La stagione della spesa pubblica territoriale senza controlli è finita, scrive questa mattina sul Sole 24 Ore il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, invita a cambiare pagina il presidente di Confindustria a rivedere i vari livelli di decentramento dello Stato. Il leader degli industriali prende spunto dai recentissimi fatti di cronaca e dice: la stagione della spesa pubblica territoriale senza controlli è finita, è durata anche troppo a lungo. Così come spiega Giorgio Squinzi, la moltiplicazione delle burocrazie e il proliferare dei poteri di veto sono un costo che l'impresa italiana non può più sopportare. Ragionamento questo ripreso e condiviso dal vicepresidente di Viale dell'Astronomia, Lobello. Sentiamo le sue parole. Alla luce anche di questa crisi profonda, sono convinto che l'Italia abbia bisogno di più Stato e non di più decentramento sulle regioni. Fino a qualche tempo fa ragionavamo sul federalismo fiscale e sembravamo tutti convinti che fosse la scelta per il Paese. Alla luce delle evidenze di questi anni, anch'io ho cambiato posizione e visione. Il nostro è un Paese che non può governarsi nelle periferie. Alcune riforme approvate nel recente passato vanno completamente riviste, sottolinea Confindustria, a cominciare dalla confusa e controproducente assegnazione di ruoli e competenze contenuta nel titolo quinto della Costituzione, che va riformato. Il governo è molto preoccupato, commenta da Palazzo Chigi il ministro per la cooperazione Riccardi, che però aggiunge: dobbiamo riconoscere il grande valore che hanno gli enti locali. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E ad un mese dal voto in Sicilia si sono definite le candidature. In diretta Valentina Furlan. Netto. Sì, buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. In effetti fra un mese esatto, il 28 di ottobre, si voterà in Sicilia per il nuovo governatore. Fino a ieri c'era incertezza su chi avrebbe corso per SEL e l'Italia dei Valori. È sbucato il nome di Giovanna Marano, che avremo tra poco in Italia in Controluce in diretta al posto di Claudio Fava. Lo ricorderete, Claudio Fava, giornalista, scrittore, sceneggiatore, ha rinunciato alla corsa alla presidenza della regione dopo che un ritardo nelle procedure per prendere la residenza ha così inficiato la sua corsa. Dopo diverse riunioni è sbucato quindi il nome di Giovanna Marano, che sentiremo. Fra gli altri correranno Nello Musumeci per il centro-destra, Rosario Crocetta per il centro-sinistra, e questo sarà un test anche per le elezioni politiche del 2013 per il centro-sinistra. Grazie, grazie a Valentina Furlanetto, che ritroveremo dunque alle 13.30 in Italia in controluce. E chiudiamo questo capitolo dedicato alle regioni per dare invece uno sguardo ai mercati. In diretta con noi Deborah Rosciani. Buongiorno, allora la mattinata era partita bene, indici tutti in rialzo, Milano è arrivata a guadagnare oltre lo 0,8%, la Spagna guadagnava un punto, poi cambio di direzione molto drastico, Milano perde l'1,21%, Francoforte meno 0,3%, Parigi in ribasso di un punto. Cosa è successo? Che stanno trapelando dal mercato le prime indiscrezioni sui risultati degli stress test condotti sulle banche spagnole e a quanto pare sulle 14 monitorate solamente 6 avrebbero superato questi test, sarebbero naturalmente le più grandi banche, fra queste il Santander, il Banco Bilbao Vizcaya. E quindi qual è a questo punto il timore? Che a Madrid servano aiuti internazionali per ricapitalizzare le banche, appunto iberiche, più consistenti rispetto ai 40 miliardi ipotizzati nelle ultime settimane anche dal Fondo Monetario Internazionale. E questo stamattina appunto sta riportando in rosso le borse europee con vendite molto forti anche a Piazza Affari su tutte le banche. Euro su dollaro a 1,29,22 e stamattina è ritornato a salire anche lo spread fra BTP e Bund di nuovo sui 375 punti base. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani e stamattina la replica di Berlino alle parole dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ce le racconta in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così Piera, intanto diciamo che si discute di bis napoletano, bis e Monti bis, il Presidente della Repubblica è chiaro, nessuna ipotesi di un altro settennato per Napolitano, il mandato del Capo dello Stato proprio per il suo carattere di massima garanzia costituzionale non si presta a rinnovo motivato o qualche anomala proroga. Più favorevoli invece all'ipotesi di Monti bis, soprattutto a Berlino, dopo le parole di Silvio Berlusconi, parole che non sono piaciute al portavoce della Merkel, Stefan Zweig, che commenta così le frasi del cavaliere. È assurdo, dice Zweig, sostenere che l'uscita della Germania dall'Eurozona non sarebbe un dramma, mentre sul Monti bis il portavoce della Merkel dice che la cancelliera lavora bene e in stretto contatto con il Premier. Ma in Italia invece non tutti sono favorevoli all'ipotesi di un raddoppio del professore a Palazzo Chigi, il paese deve tornare alla normalità, dice il segretario CGIL Susanna Camusso, bisogna presentare con dei programmi e farsi votare, si scaglia contro l'ipotesi anche Daniela Santanchè del PDL, bisogna andare ad elezioni o è dittatura montiana, e cita la dittatura anche Antonio Di Pietro dell'IDV. Per Michi Vendola invece di SEL Monti ha peggiorato la recessione, favorevole invece ad un Monti bis l'amministratore Fiat Sergio Marchionne, sarebbe un passo avanti per il paese. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Il punto di Stefano Folli. Era solo questione di tempo, era inevitabile che Monti esprimesse alla fine la propria personale disponibilità, non tanto a una formale candidatura alle prossime elezioni, quanto a guidare ancora il governo dopo il voto, naturalmente all'interno di una cornice politica che sostituirà l'attuale governo tecnico. Quale cornice, se di centro-sinistra, di centro-destra o di grande coalizione, lo diranno le urne. Era inevitabile perché non basta riferirsi in modo un po' generico, come piace ai partiti, a un'agenda Monti, cioè a un programma di risanamento da rispettare. Servono garanzie presso l'Europa e presso i mercati internazionali che quel programma sarà realmente attuato. Del resto, si capisce, le buone intenzioni camminano sempre sulle gambe degli uomini, in questo caso sulle gambe di Monti. Ma le forze politiche avranno comunque un grande spazio se davvero intendono spingere il paese in modo innovativo e non solo retorico sulla via della ripresa economica. Il problema è, ne saranno capaci? E abbiamo sentite dunque le parole poco fa nel servizio di Elisabetta Fiorito, le parole di Marchionne che si trova a Parigi in quel caso sul Monti bis. Marchionne ha parlato anche di altro, l'amministratore delegato della Fiat ha detto che sul tema degli investimenti e del lancio di nuovi modelli la Fiat ha fatto una scelta diversa dalle altre case automobilistiche, ha detto ancora che il lingotto non ha bisogno di assistenza, gli altri marchi hanno fatto una scelta diversa, adesso si trovano in difficoltà finanziariamente. Queste le parole di Marchionne. E intanto la fiamma scende in piazza Pomigliano. Per gli operai rimasti fuori dal circuito produttivo, la cassa integrazione scade nel 2013. Al microfono di Clemente Lepore, il delegato FIOM Domenico Loffredo. C'è una produzione in atto, nuova, che è la Panda, e però allo stesso tempo diciamo abbiamo anche 2000 lavoratori che sono fuori e non sono stati riassunti nella nuova società, e quindi noi la prima richiesta che facciamo ovviamente è quella di essere riassunti tutti in fabbrica e poi magari dividere diciamo l'orario di lavoro, spalmarlo per tutti i lavoratori e fare in modo che diciamo tutti possano avere almeno un rapporto continuativo con la fabbrica. E a Taranto proseguono le proteste dei lavoratori dell'Ilva di Taranto. In diretta il collega del Sole 24 Ore, Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico. Buongiorno, sono qui dal presidio dei lavoratori dell'Ilva sulla statale Appia perché i blocchi stradali proseguono e sono in corso da ieri mattina. Poco fa qui al presidio, che è stato indetto insieme allo sciopero per dire no alla chiusura degli impianti dell'Ilva di Taranto, è arrivato anche il sindaco. I lavoratori lo hanno accolto con qualche contestazione, lo hanno chiamato per nome, gli hanno detto sono due giorni che ti aspettiamo. Il sindaco ha detto ai lavoratori: ho parlato oggi col presidente Monti, ho chiesto di portare a voi la solidarietà del governo, ma solidarietà intesa come impegni concreti del governo verso questa vertenza molto importante. I lavoratori però evidentemente non si accontentano di queste parole, vogliono qualcosa di più, perché fanno presente, sono ormai diversi mesi che noi siamo sotto pressione e il pericolo che gli impianti del l'Ilva siano spenti a seguito del sequestro disposto dalla magistratura è tutt'altro che remoto. Lo sciopero andrà avanti sino alle 7 di domani mattina. Inizialmente il sindacato aveva pensato, FIM e WILM, che organizzano questa protesta, di fare solo 2 ore di sciopero e rinviare invece ad una manifestazione a Roma da farsi nei prossimi giorni. Poi si è deciso di mantenere il blocco così com'è. Oggi anche il giorno dell'AIA, il Ministero dell'Ambiente ha definito la nuova autorizzazione integrata ambientale. Un punto fondamentale è che l'AIA ridurrà in modo drastico e significativo le emissioni inquinanti a partire da polveri e benzapirene. E insieme ai lavoratori di Taranto oggi scioperano anche i lavoratori dell'Ilva di Cornigliano in Liguria, perché quello stabilimento dell'Ilva è alimentato proprio dalle produzioni di Taranto. È tutto a voi studio. Grazie a Domenico Palmiotti. Dopo 2 anni difficili, con la perdita di 2000 posti di lavoro e il 70% delle aziende del settore alimentare, dichiarano di avere in programma nuove assunzioni per il biennio 2013-2014. Tecnici della qualità e esperti di marketing più richiesti, ma si affermano anche nuove professioni come il manager della sostenibilità e l'analista del gusto. Lo studio è stato presentato al 9° forum dei giovani imprenditori di Federalimentare, quindi una buona notizia. E oggi è il giorno dello sciopero generale dei servizi pubblici di CGIL e UIL contro i tagli previsti dalla spending review. A Roma corteo e comizi. In diretta con noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Difendere il lavoro e creare occupazione, questa è la ricetta per uscire dalla crisi, al messaggio che CGIL e UIL inviano al governo dal palco di Santi Apostoli, in una manifestazione per protestare contro i tagli lineari alla spending review, alla quale hanno partecipato circa 30.000 lavoratori pubblici, dalla sanità agli enti locali, dalla ricerca all'università, ma anche esodati, pensionati e disoccupati. Il lavoro è dunque il punto dal quale ripartire, secondo Camusso, che attacca il governo a seguire capace solo di tagli e licenziamenti. CGIL e UIL chiedono dunque un piano industriale di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Bisogna salvare gli italiani e la gente che lavora, dice il segretario della UIL Angeletti, che lancia un duro attacco al governo. È stata chiamata a salvare l'Italia, ma è solo l'Italia dei palazzi quella che ci sta salvando. Una manifestazione dalla quale ha preso le distanze la CISL, più volte fischiata durante il comizio dei due segretari. Un grande sindacato come la CISL, ha detto Camusso, non può nascondere ai lavoratori le difficoltà e non offrire una prospettiva di cambiamento. Ed ormai è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. A settembre il tasso di inflazione annuo secondo l'Istat resta fermo su base mensile ed è stabile al 3,2% su base annua. A settembre il rincaro annuo del cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, da cibo a carburanti, è invece del 4,7%. E non è di certo un prodotto considerato di maggior frequenza, magari lo sarà in futuro, ma è di certo un prodotto molto ambito. Parliamo dell'iPhone 5, da oggi in vendita anche da noi in Italia. Enrico Pagliarini. Buongiorno, sì, in vendita anche in Italia, dopo un primo gruppo di paesi la scorsa settimana è arrivato negli Stati Uniti, oggi invece arriva in 22 paesi nel mondo, ci siamo anche noi e forse la notizia è, oltre che le classiche file, perché ci sono sempre gli appassionati che fanno la fila, io questa notte ho fatto un giro in centro a Milano, c'era una discreta fila di persone insomma, che aspettava di comprare questo nuovo prodotto, potremmo forse dire che la notizia è che siamo i primi in Europa e forse molto probabilmente anche nel mondo per... Che cosa? Per il prezzo, perché è il prezzo più alto d'Europa. E alcuni potrebbero domandarsi per quale motivo, beh ci sono molte componenti, un po' l'IVA, un po' il famoso diritto che si prende la SIAE su tutti gli hard disk, quindi anche dentro l'iPhone c'è un hard disk, ma alcuni hanno ipotizzato, e questa potrebbe essere una buona ipotesi, che il sistema tra operatori e Apple voglia spingere verso gli abbonamenti, perché a conti fatti probabilmente è conveniente, alla fine diciamo di un periodo in cui vieni bloccato con l'abbonamento, farsi l'abbonamento. Ma tu l'hai visto, l'hai toccato, l'hai preso in mano? Sì, Francia, sì, com'è? Sì. Beh, diciamo che alcuni prodotti giravano già nei giorni scorsi, certo, perché sono arrivati da altri paesi, quindi insomma, beh, allora il prodotto è sicuramente, come dicono le specifiche, più sottile, molto leggero, molto simile al precedente iPhone, un po' più lungo perché ha questo schermo da 4 pollici, però potremmo dire, vedendolo non si notano grandi novità, alcune novità nessuna ci rivoluzione. Sono, però sicuramente è una evoluzione del 4S, insomma del precedente prodotto. E ripartiamo invece da un divorzio eccellente e parliamo di Formula 1. Carlo Genta. Divorzio eccellente che è quello di Michael Schumacher con la Mercedes, perché prima era un bisbiglio, poi un sussurro, poi una notizia non confermata, adesso invece è confermatissimo. Lewis Hamilton guiderà la Mercedes per 3 anni a partire dalla prossima stagione, Michael Schumacher viene grosso modo pensionato e ha anche rilasciato delle dichiarazioni: ho avuto 3 anni meravigliosi che purtroppo non sono andati come tutti noi avremmo voluto. Sotto il profilo sportivo auguro a Hamilton tutto il meglio, voglio ringraziare la squadra per la fiducia, ragazzi, il loro impegno incondizionato. Dichiarazioni di prammatica, però la notizia importante è che appunto Hamilton lascerà la McLaren a Perez, che è stato ingaggiato dalla scuderia inglese, farà coppia con Jenson Button, che sarà naturalmente la prima guida, e Lewis Hamilton prenderà il posto di Michael Schumacher alla Mercedes. Quindi questa è, direi, la notizia del giorno. Assolutamente, Piera. grazie Carlo Genta. E siamo alle notizie dall'estero. Sarà l'ex ministro delle finanze socialdemocratico Per Steinbrück a sfidare nel 2013 Angela Merkel alla cancelleria. Fino ad oggi i socialdemocratici avevano 3 possibili candidati. Uno sbarco sulla spiaggia con centinaia di soldati dell'esercito keniano per chiudere la partita con gli estremisti islamici di Shabab. Nel sud della Somalia si combatte una battaglia decisiva per gli equilibri del Corno d'Africa. Uno sbarco in grande stile sulla costa dell'Africa orientale a metà strada tra Mogadiscio e Mombasa. L'esercito del Kenya, inquadrato nel dispositivo AMISOM, che significa ONU più Forze Armate Africane, ha lanciato nella notte l'assalto finale dopo un anno di operazione all'interno del territorio somalo. Sostenuta da Addis Abeba, dal Sudafrica, dall'Occidente, l'operazione in Somalia punta alla resa delle forze islamiste, ostile a ogni presenza straniera e considerate l'anello più orientale del qaidismo in Africa. L'operazione si inquadra nella strategia di stabilizzazione armata di un paese che da 20 anni esiste solo sulla carta e nella realtà sopravvive dando vita a stati di fatto autonomi. Conquistare Chisimaio non sarà facile, ma tenere il territorio del Basso Giuba che circonda il porto sarà ancora più complicato, come hanno dimostrato gli attentati di matrice islamista in territorio keniano. Migliaia di profughi hanno intanto lasciato nuovamente la zona dei combattimenti per cercare di mettersi al sicuro nelle zone controllate dall'Unione Africana e dal governo di transizione. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadore. Vi lascio al GR Spettacoli. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. In apertura gli ascolti TV con quasi 4.900.000 spettatori e uno share del 19,76%. È lo show dei record di Canale 5 a vincere la gara degli ascolti TV di prima serata, battendo il commissario Nardone di Rai 1. Nell'Access Prime Time, Affari Tuoi continua a erodere il divario con Striscia la Notizia, 17,55 contro 20,09%. Intanto, mentre parte la macchina di Sanremo 2013, il cui regolamento è stato presentato ieri alla Rai di Milano, Fabio Fazio lancia anche il nuovo Che Tempo Che Fa. La trasmissione compie 10 anni e cambia, da domenica prossima su Rai 3 dalle 20.10 alle 21.30, il lunedì con Roberto Saviano dalle 21 alle 22.35. Fabio Fazio. Nuova collocazione, non nuovo format, la domenica è identico, il lunedì, come dicevo, una sintesi degli elenchi di Vieni Via Con Me, delle parole di quello che non ho. Spesso Saviano, speriamo ospite, è un tentativo per vedere per 3 mesi, cioè cominciamo adesso e a dicembre decidiamo se continuare o se tornare al sabato, ma insomma è un tentativo che va fatto, è un esperimento che ritengo persino doveroso, però dopo tanti anni. Siamo al 10. Intanto, tornando a Sanremo 2013, ieri appunto è stato il giorno del regolamento. Nessuna preclusione agli ex dei talent, ma giovani solo maggiorenni. Ritorno della giuria di qualità, supervisione del direttore musicale Mauro Pagani. I costi? Inevitabili tagli, dice il direttore intrattenimento Rai Giancarlo Leone. E da questo punto di vista tutto costerà meno e anche il Festival di Sanremo dovrà costare meno, ma ricordiamoci che è l'evento televisivo dell'anno che è atteso da una buona parte del pubblico televisivo. Quindi bisogna da questo punto di vista fare di un problema virtù e sicuramente una conduzione intelligente di Fazio ci consentirà probabilmente di mettere ancora più al centro di prima le canzoni. Intanto Rai 1 continua a puntare sulle fiction biografiche. La prossima, domenica e lunedì, sarà dedicata a Enzo Tortora, diretta e interpretata da Ricky Tognazzi, Il caso Enzo Tortora, dove eravamo rimasti? Parte dall'arresto del presentatore, padre della televisione moderna, come spiega l'autore della biografia Applausi e Sputi, Vittorio Pezzuto. Enzo Tortora è importante perché ha di fatto riscritto i canoni del linguaggio radiofonico e televisivo nel nostro paese. È stata una novità felice nel panorama dell'informazione italiana, un uomo che non sbagliava un congiuntivo, che aveva un tratto umano distinto e molto colto, un uomo che ha portato per la prima volta i cittadini comuni davanti allo schermo con Portobello. Enzo Tortora ha inventato la domenica sportiva così come la conosciamo, ha portato per la prima volta sugli schermi politici a fare altro rispetto alle dichiarazioni con Cipria, quando li ha fatti addirittura cantare. Enzo Tortora si è inventato nel 1980, quando ancora non esisteva il telecomando, il televoto e le nomination. La trasmissione era l'altra campana e i telespettatori erano invitati a votare su un sondaggio, un referendum, accendendo oppure spegnendo la luce. Enel dava in diretta le variazioni di consumo. E per la seconda edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.